Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Nuovamente saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, anche oggi entriamo nel grande mondo delle statistiche, quello dei numeri, e parliamo, ahimè, di una cosa dolorosissima, le tasse. Sì, purtroppo parliamo di tasse, parliamo di quante queste sono aumentate negli ultimi 10 anni e di come alla fine le tasse vanno a erodere quelli che sono, chiamiamo, gli incrementi che i lavoratori, in questo caso in busta paga, o che hanno comunque ricevuto dal 2003 ad oggi le persone, e sostanzialmente come alla fine quello che ci resta è ben poco coso rispetto a una rivalutazione dei nostri netti disponibili pro capite, che scopriamo se no che ce ne mangiano circa la metà di quanto dovrebbero essere le nostre aspettanze. Ho capito, parliamo di numeri che vanno, questo calcolo medio, dal 2003 al 2013. Sì, parliamo proprio di numeri perché dobbiamo dire che in questo caso parliamo proprio di un'indagine che emerge dall'OCSE, elaborata da Ander Kronos, che ha voluto fare proprio dal 2003 al 2013 un andamento di quello che è stato il reddito degli italiani, che sostanzialmente negli ultimi 10 anni è aumentato del 28,5%, addirittura è passato da 23.000 euro qualcosa ai 29.000, chiaramente lodi. Però cosa succede? Che in realtà questi 6.590 euro che i lavoratori in generale hanno percepito, quindi qua parliamo di un reddito medio, praticamente il fisco se ne è mangiato oltre 3.800. Vuol dire che in soldoni il fisco, rispetto a quello che è una tassazione che è di circa il 31%, quindi anche questa aumentata di 3 punti percentuali sui redditi, ha pensato bene di accanirsi sugli aumenti di questi ultimi 10 anni, quindi sostanzialmente è andato un pochino a erodere quello che è la nostra capacità di poter spendere, e chiaramente questa cosa, paragonandola con gli altri paesi, certamente non ci fa fare bella figura qui il resto dell'Europa. Ecco, dammi qualche esempio che mi fa rodere di paesi che stanno meglio, per esempio. Allora, dobbiamo fare una precisazione innanzitutto come i paesi in fase di sviluppo, in questo caso parliamo di Slovacchia e di Slovenia. Negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento dal 74,6 e del 51,2%, però qua certamente il reddito era molto inferiore rispetto alla disponibilità che possiamo avere noi in Italia. Però certamente possiamo paragonarci ad altri paesi, come per esempio la Finlandia, dove addirittura l'aumento è stato del 43%, portando il guadagno dei cittadini da 29.624 a 42.000 euro. E addirittura è diminuita la tassazione dal 31,5 al 30,2. Chiaramente il fanalino di coda è la Grecia, dove in questi ultimi 10 anni c'è stato un aumento del 6,5% solamente, però la tassazione non è stata come noi nostra del 31%, ma del 25,5. E poi ci sono altri paesi come il Lussemburgo, dove si è passati da 39.587 euro a 52.000, più 33%. Le tasse, anche se sono aumentate di 4,7 punti, sostanzialmente non vanno a superare all'incirca il 29%. Quindi certamente situazioni che si possono contrapporre, ma che per esempio se noi andiamo a verificare, per esempio con la Germania, è vero che le tasse sono del 39%, ma sono scese di 3,8 punti rispetto ai 10 anni, hanno un reddito completamente diverso rispetto al nostro. E bisogna dire che simili all'Italia sono la Slovenia e l'Olanda. Chi invece se la passa peggio oltre la Grecia è il Belgio, con una tassazione del 42,6%. Quindi sostanzialmente l'Italia, in un ambito di quella che è una comunità europea in termini di tasse e di reddito, si colloca al quarto posto. insomma, chissà che un giorno ci siano meno tasse, più reddito per noi italiani, in maniera che riusciamo anche a spendere un po' più i soldi e aumentare questo benedetto PIL che ahimè latita molto. Va bene, grazie come sempre agli approfondimenti che sviluppiamo insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori, che ha il sito associazionedifesaconsumatori.it, quindi andatelo a vedere. Se non avete capito qualcosa, trovate anche l'argomento che abbiamo appena trattato proprio nel sito dell'Adico. Io ringrazio e do l'appuntamento alla settimana prossima, quindi il presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.